KK, questo è quello che piace a, a Giuseppe, confermi Giuseppe. Di positivo l'amico Pacchetto, questa è secondo me, attenzione, lo dico sempre, è il modestissimo parere personale, è per me la modulazione più bella che puoi usare quando sei in radio, proprio fedele a come sei tu, alla tua voce, diciamo al tuo essere, dai. Vabbè, lasciamo questa, lasciamo. Tutte cose come stanno, va bene, riprendi Giuseppe e tirate, Grazie, però per quel piccolo coso di alternata c'è il rimedio, senza stare a cambiare capo e tutte quelle storie lì. E sarebbe, devi infilare due dita nella presa della corrente, e poi schiacciare direttamente il mic. Non ho capito. Allora, devi infilare le due dita nella presa della corrente, ti prendi una bella passatina di corrente e poi schiacci subito il mic e ti metti a cantare, è un rimedio. È Monello. Robe, è Monello. No, io non l'ho voluto dire, cacchio, però quelli sono segreti, però non avrei fatto male a dirlo, Giuseppe, cacchio, sai che poi lo faccio a qualcuno, dai, poi sono cose, sono dopo anni di esperienza, quelle cose lì si fa. No, comunque a parte di scherzi, scusate se intervengo, l'avete sentito il telegiornale? No, è successo. Questo ragazzino di 14 anni che stava giocando a sputafuoco, a me adesso porto un poco di tutto. Ma no, per qua è a casa? A Salerno, le napoletane. Oddio, ha sputato a fuoco, si è riempito di alcol. E allora, si è buttato l'alcol addosso, no? E stava provando a spegnerlo così, no? Come si fa, no? Avete buttato un po' d'alcol nelle mani dello spegno. E invece si è allumato tutto. Come sento qualcuno chiamando, avanti chi vuole entrare? Un carabinieri. Buonasera lì, ciao, è compagnia mia di Falchetto di Giuseppe. A Bobbonio. Ciao, ciucucciù, come va? Popo. Sì. E beh, nulla mi dici. No, sono in Capavese, c'è qualcuno che sta chiamando un po' più basso di me. Mi sembra che sia con 5, guardi chi è? Però io, Antonio, ti stavo salutando, ti ho detto ciao, ciucucciù. Ma tu è più alto, quello è più basso, non è chiamato Giuseppe, ciao tu, come fai, ciucucciù. Antonio, ti volevo dire, sta difettando quel microfono. Come mai? C'è il cavo dello spinotto, come quando tocco il cavo esco di modulazione, muovo il cavo e non esco più. Sì, vabbè, sentiamo, ora facciamo un segno di una, faccio uno, poi faccio l'altro, va? Kappa. Scordo. Sulla fase di tre. Roberto, riprenditela Roberto e fai girare. Un secondino, vi adesso la presa. Kappa, riprenditela Giuseppe. Kappa, io stavo cercando almeno per chiedergli un'informazione. Dimmi Giuseppe. A me sta difettando il portafoglio, Antonè, cosa posso fare? A te ti sta? Mi sta difettando il portafoglio, cosa posso fare? Sì, qual è il problema? Andiamo in banca. Dove c'è il banco, ma se facciamo più lui, poi facciamo finire una e vediamo i soldi che ha tirato lui. Bancomat. E che cos'è questo bancomat? Ma quella roba che vengono torrotto, si lì da quelle parti. Anzi, ti voglio in me che c'è un bancomat. Ciucucciù. Ai, titti, amorello, Antonio, ciucucciù, esce lì. Ciucucciù. Tu te l'hai sentito? No. Il tipo su che andiamo, Va. Mannaggia, pompoglio. Ah, due salvature non ce ne puoi fare a questo portafoglio in maniera che non le possiamo aprire, pompoglio. Non tanto, pompoglio. Ai, alla benemeta. meta. Anda bene meta. Buona, buona. A Semiliano. Buona, buona a tutti, buonasera. Buonasera Massimiliano, ben entrato. Buonasera Massimiliano, ben sentito, ben trovato e ben tutto trattato. Ti auguro che cambia 200 per 200. Da ora ci piantiamo il birichino nel cingolato, eh? Ah, ti avevo dato la conferma? Cava, cava. Già va bene allora, già va bene. Riprenditela Giuseppe. Carissimo! Carissimo! Via! Su che si urla qualche che... Vai! Vai, vai, se la riprenda! Andate degli abbammacchi, Massimiliano, mannaggia! Si è fatto drammatizzare un po', Massimiliano. Ci si scarica un pochino le tensioni della giornata di lavoro, mannaggia. Si conferma, si conferma. Dunque, tra un po' adesso con tutta la rima direte preta, massi. Siamo io e le pietre. Tra poi divento anche io la pietra. Cattolo, andiamo, andiamo bene. Ma ce l'avete vostro oppure a noleggio la cosa? Mi scappa il coso, la macina, come si chiama? Il nostro. Cappa di positivo. Io prendo da Cagliari lì prima di coso, di Abbasanta, e ce n'è qualcuno. Fatelo però quello che trittano lì è proprio tosta come pietra. No, macina tutto, macina. Non ne ha paura di pietra, no. Dure, morde, di tutto. Ma come Massimiliano, attende che funziona questa storia qui, o come... Io mi ricordo le cementerie quando scendevo lì giù a scaricare, e lì c'era le cose, il frantoio che rullava a catene. Questo è poca parola, c'ha due ganasce, capito? Come la bocca, solo che una rimane ferma e l'altra si muove avanti e dietro, capito? Fatto girare da una polizia grande con cinghie. E cappa di positivo, dai, vai. Va bene, no, quello che ho conosciuto io, il fatto che c'era giù alle cementerie erano le catene incrociate, e quando si buttavano male, mi ricordo scaricavi i massi enormi, e lì con le catene potrebbe essere forse per quello che serviva a loro, parlo io, Massimiliano. Ma sai come lo faceva quel prodotto lì, fino. Non so, però non so se la roccia la fa piccola, eh. Ah, presumo di no, sicuramente loro quel frantoio l'avevano fatto per la, diciamo per il prodotto che tiravano fuori loro stessi da lì su, perché noi quando andavamo giù a scaricare, diciamo che come materiale non era molto resistente, mi hai capito? Più che altro io mi rendevo conto, sembrava quasi come addirittura come calcario, mi capisci Massimiliano? Io ho capito come sono quelle catene, girano intorno, girano. E sicuramente quel materiale come il cemento, Giuseppe, c'è presente i sacchetti del cemento, quando tu li lasci per terra in mezzo all'acqua, li mettono una pietra. E sicuramente il materiale è una cosa del genere. Quindi passavano queste catene e diventavano in polvere, giusto? È cappa di positivo, lo confermo al 100, Massimiliano. Proprio così, uguale, uguale, guarda, la fotografia di quello che hai detto tu adesso. No, questa è una cosa diversa, questo ci butti proprio i massi di trachite, perché dove sono io c'è la trachite. I massi li fa da zero li fa 0,250, 0,300 come grandezza. E la trachite è tosta, io la trachite l'ho conosciuta, ma è veramente dura, Massimiliano. Poi specialmente quando trova quel masso che non c'ha filo, allora si sente il motore che trondeggia un pochettino, cioè non è che trondeggia nel senso se ne scende, no? si sente proprio tutto il colpo che hanno fatto io, capito? Cava, figurati che cos'è quel materiale lì. Guarda, io l'ho sempre ammirata la trachite per la robustezza, anche per il colore che ha, anche se rimane molto scuro, come è molto scura come pietra, però è tosta proprio e che non se ne può più. Ma se non mi ricordo male si usava anche come fondamenta prima, per tirare sui palazzi quel materiale lì. Martellino di bianco, Giuseppe. K di positivo, ma io non c'è problema, Fatti. Sì, Giuseppe, così è. Le case vecchie, anche a Sassari, qualcuno c'è ancora, le fondazioni proprio di pietra, di tratizia. Diciamo che è abbastanza dura, infatti la stanno macinando, quella lì è il sottofondo della strada che comunque la usano sempre per fondamenta quel materiale lì, perché quello che credo io parlo proprio da profano in questo campo qui dovrebbe essere anche del materiale nobile quello, o sbaglio Massimiliano? Mobile? No, nobile. Ah, sì. Il brutto però della trachite, sai come sai, che c'ha... Dipende, ci sono vari tipi di trachite, capito Giuseppe? C'è quella che non porta umidità e quella che porta un casino di umidità. Perché io ti faccio vedere come si spacca il masso, dentro è proprio umido, capito? Invece ce ne sono certi tipi che è proprio asciutto. Quindi si conferma che come in ogni cosa bisogna essere sul mezzo per conoscere i prodotti ed effettivamente dai, funziona così. Ti dico questo perché io come dietro una Cagliari prima di prendere, cioè come finisce la salita di Paoli d'Attimo, no? E prendi diciamo il rettilineo per salire su alla Basalta, lì c'è proprio un credo che sia come un deposito, quello che la lavora lì la trachite. Sì, l'ho visto sabato mattina. Io vedo due camion con gru senza sponde, fanno la spola a quei camion lì, da lì a Bosa, e non so che cosa tutto stiano facendo, perché portano dei massi veramente grandi, però io non so se adesso quei massi li prelevino da Bosa e li portano lì. Sinceramente non ho capito bene il percorso di quei due metri. Ma invece secondo me c'è proprio la cava lì dove ci tu nella solita Paoli d'Attimo lì. Sicuramente li porteranno a Bosa, i blocchi e li lavoreranno, ho capito, cioè la fanno tipo cantoni là. A me per un momento era balenata come l'idea Massimiliano e quei massi, ma ti dico veramente grandi perché li ho visti caricati su quei metri e sono addirittura uno tre assi, uno quattro assi, tutti e due con gru, io credevo che li stessero utilizzando per tipo un frangionde lì proprio all'ingresso del porto di Bosa. Non so a cosa servono, Giuseppe. C'è stato qualcuno che voleva entrare, Giuseppe, io ne approfitto un secondo, dai, che devo scendere qua dalla PM e riprendo dopo, dai. C'è stato qualcuno che voleva entrare. Avanti, ti saluto per il momento, Giuseppe. K di positivo, Massimiliano, dai. Se coincide ce la sentiamo più dopo. Non ci sta nessun problema. Non possibilmente non tutto. Avanti chi vuole entrare su 5 carica. Dammi un secondino che sto mettendo un punto di saldatura. Vai tranquillo, qualche, io te ne do anche 10 di secondini e di minuti. E bianco per me, dai, 5 minuti ci prendiamo qualche e poi si rientra con calma. Vai con tutta tranquillità. Buonasera, scusate se entro. Sì, buonasera a te, se non sbaglio gli occhi. Ciao, sono Giuseppe, faccio una prova su un CB in un auto. Cacca, avanti con la prova. Come mi ricevete? qui nella mia postazione 9+20 di segnale, radio ti posso dare 4. Sei comprensibile, però di radio potresti migliorare ancora un punto, vai. Sono le prime armi, datevi qualche tempo. Vai tranquillo, non c'è nessun problema, non c'è nessun problema. E ci siamo sentiti avanti, se non mi ricordo male. Ieri vi siete sentiti con Andrea, che stava sempre provando questo CB. K di positivo, questo CB, ti ripeto, come segnale va benissimo, ma è in barra mobile oppure in stazione fissa. Diciamo che per l'uso che ne faccio io dovrebbe andare bene. Ma in questo momento sei in macchina oppure stai modulando da casa? No, sono in macchina e mi sto muovendo, infatti credo che il rumore che sentite sia proprio la macchina. Va bene, per quello non c'è problema, anche perché come segnale, perlomeno qui nella mia stazione, è eccellente. In che zona ti trovi? Adesso sono alla Brettella, Latte Dolce. K di positivo, dai. Il mio QTH è qui in zona Sacro Cuore, dai, siamo anche abbastanza vicini. Comunque eccellente come segnale, va veramente bene. Bene, questa è una buona cosa. Ma ti ripeto, 9+20 come segnale è perfetto. Purtroppo ho un mezzo trattore che come sottofondo non mi aiuta a sentirvi, però mi arrangio. K di positivo, fai tranquillo che qui sta arrivando liscio come segnale. Rumore di sottofondo qui mi arriva proprio niente. A distanza siamo molto lontani. Ma guarda, io ti ripeto, io sto qui, non a Sacro Cuore. Diciamo che la via potrebbe essere, che ne so, 400-500 metri, se tu sei in zona Bretellina del Latte Dolce. Vediamo se ti sento, guarda, perfetto. K di positivo, vai. Anche tu qui stai arrivando veramente bene. Che microfono stai usando? Guarda, sinceramente non te lo saprei dire, era tutto insieme nel CB. Vai, non ti preoccupare, poi pian pianino le cose si sistemano, non è un problema, perché ci sono diversi microfoni che si possono abbinare ai baracchini, quindi non è questo il problema, perché magari è un baracchino che va come una bomba e magari il microfono che non te lo fa, diciamo, venire fuori come si deve, come segnale. Però non mettere i problemi, perché anch'io il microfono che sto usando adesso è un Proxel e io sto usando ad esempio una Line 48, cioè un baracchinetto così. Però ti ripeto, mettendo il microfono ben amplificato esce che sia una bomba. E questa è una cosa in più, adesso ho scoperto che anche l'antenna fa il suo lavoro. L'antenna diciamo che è la cosa principale. Infatti penso di prenderne una decente. Ma sempre per la barra mobile. Perché sulla macchina ho montato l'antenna originale che ha 20 anni, quindi... Va bene, ma per la macchina ce ne sono tante, dai. Ce ne sono buone. Io ad esempio, se mi dai un secondo di tempo. Prego. Prego. Sì, registrato il brecco, avanti il palchetto. Riprendi tu un secondo con l'amico che è in BM, io devo controllare una cosa, palchetto. Ma chi è l'amico? Sì, chi parla? Che è l'amico BM, qua è Falchetto, dai. Antonio, è alle prime armi l'amico, avanti pure l'amico per l'amico Falchetto, K. Scusate, devo andare a situarmi. Ho capito, ma dove stiamo arrivando, Giuseppe? Lui mi sente a me? Sì, io ti sento abbastanza bene. Gamba gamba. Ho detto la tua zona di modulazione, da dove stai modulando? In questo momento sono a Sassari 2, nella Puglia. Gamba, Sassari 2, mi confermi, Giuseppe? Ma di positivo fai detto, l'amico ha detto che lei Sassari 2 è sulla Puglia. Gamba, ma io volevo lasciare un attimo perché mi sto saltando il microfono. Scusa l'amico, ma devo fare un attimo di bianco, Giuseppe. Niente, sto finendo di chiudere il microfono, dai. Vai tranquillo, Falchetto, tranquillo, Falchetto, e lo riprendo io l'amico. Zappa. Allora adesso ce l'ho messo a posto io, Oh Giuseppe, ti ringrazio, è tutto ok adesso. Figurati, registrato il greco e avanti il greco. Attenzione, attenzione, puoi ripetere per cortesia. Riavanti il greco per cortesia. Sai cos'è, lui? È l'ottava in un camper. me, figuriamoci un po' a te in quelle coordinate. K di Rogero, dai, non fa niente, non fa niente, dai. Ok, sì. Va bene, riprendi Domi e fai girare, dai. Ecco. Registrato, prego. Quando scendi, quando sali, quando torni a scendere, vai. Dipende, perché ci sono giorni che dormi e ci sono giorni che proprio ti svegli e non riesci più a chiudere l'occhio, dai. È così che ne approfittiamo a modulare, dai. Ma paga, è in effetti così, bisogna prenderla per come viene. Di QRM stasera, no? Confermi dove? Gappa. Ah, è molto QRM. Qua, perlomeno nella mia stazione, sento molto QRM. Io adesso vado a fare carica. e gli spaghetti vogliono mangiarti cardi cardi. Capo di Rogio, buonasera, allora dai. Ma penso di sì, sì, penso di sì. Se non mi si antropizzano gli spaghetti in bocca dovrei rientrare fra... Tanto ci metto poco lì a mangiare, mangio giusto due giri di spaghetti e basta, mi voglio coricare leggero stanotte. E le antenne della ragosta me le mangio domani. Capo, va bene, dai, buona giornata, ci ho perso, se la fredda. Capo, a più tempo. Almeno quando senti uno da fuori, almeno è controllo. becco, becco, becco, becco, becco del coglione. No, ma chissà, praticamente, cioè io non ti ho parlato male di niente, ti ho chiesto soltanto se mi poteva dare il controllo, e chissà, italiano sempre in controllo, controllo. Mi ricordo un'ottica l'anno scorso, fatto un giro in aereo come me l'altra volta. 10 anni già c'era quando... Fragica, tu? Come? Fragica! Io sono usato a vedere, ma sono buffone. Non so come fare così. Ti mando un giro in elicottero, poi una salita, una discesa, però che fai giri, compro giri, no. Tutto questo è verticale, avrei che ti avevi fatto scendere. Non ci qualcuno, io ho fatto una volta alla torre di controllo, sull'elicottero, passato.